Mix 24 di Giovanni Minoli. Uomini delle nostre forze speciali starebbero preparando in Libia un intervento militare italiano. Il Times di Londra scrive che 1000 soldati inglesi si preparano a partecipare alla missione militare guidata dagli italiani. Tutto falso, secondo lo Stato Maggiore della Difesa. Una stretta di mano veloce tra John Kerry e Paolo Gentiloni e il vertice sulla lotta all'ISIS può cominciare. C'è il rischio che l'attività di Daesh si moltiplichi il proprio raggio d'azione in Libia. Sulla questione libica c'è una grandissima convergenza tra tutti i paesi rappresentati. Kerry, il segretario americano, dedica alla Libia un mini vertice nel vertice. Il presidente Obama ha detto molto chiaramente all'inizio che non aveva intenzione di mettere gli scarponi sul terreno, nessun dispiegamento massiccio in Libia. L'Italia è stata meravigliosa, uno degli impegni maggiori, più rilevanti. Per me l'Italia sta davvero svolgendo un ruolo di primo piano. Se nascesse un rischio concreto per l'Italia, siamo in grado di intervenire. Cioè, questo è una cosa siamo che... in guerra. Domanda. Non, chiedo, nessun ministro della difesa racconta no, come intende intervenire. Ministro Pinotti, buongiorno. Buongiorno. Era lei 10 giorni fa, si ricorda? Ieri il segretario americano John Kerry ha chiesto alla coalizione nuovi contributi. Cosa vuol dire per l'Italia? L'Italia sta per... il Parlamento fra poco riceverà appena passaggio tra i diversi ministeri per concordare sul testo, consentirà di avere il Consiglio dei Ministri, cosa che avverrà nei prossimi giorni. Sta ragionando su che cosa può fare ulteriormente in Iraq, dove siamo già molto impegnati. È ovvio che l'Italia non pensa ad aprirsi altri fronti, anche perché ha già un impegno notevolissimo. Ecco, ma quando... Su questo c'è un assetto importante che l'Italia ha, non tutti i paesi ne dispongono, ed è un assetto anche complicato da gestire, ma è un assetto che si sposa bene con quella che è la filosofia italiana dell'intervento, cioè cercare di intervenire in Iraq sulle esigenze per sconfiggere l'ISIS e aiutare gli iracheni. Ed è un assetto che consente... E quelli sono i 100 militari inviati, no? Quanti sono per difendere? Che invieremo, questa è la proposta che faremo al Parlamento, un aumento del nostro contingente ad Erbil, dove già abbiamo addestratori. In questo caso invece si tratterebbe di personale medico e di soldati che sono in grado di intervenire quando un ferito viene colpito in una zona di guerra. Ecco, però, ministro Pinotti, parlando della Libia, Kerry ha detto in Libia il ruolo dell'Italia è essenziale per continuare a schiacciare Daesh. Ecco, andiamo in guerra allora. Guardi, noi stiamo aspettando un avvenimento importante che io mi auguro la prossima settimana di poter salutare, che cioè? È la formazione di un governo libico. Noi sappiamo che è stato presentato nelle scorse settimane una lista dei ministri, questo governo è stato ritenuto eccessivamente numeroso e quindi la lista è stata respinta dai parlamentari che hanno sottoscritto l'accordo. Sembrava un governo italiano della Prima Repubblica, più o meno. Un governo con numeri piuttosto elevati. Ora il presidente incaricato sta predisponendo una nuova lista di ministri. D'accordo. E nei primi giorni della prossima settimana dovrebbero presentarla di nuovo. E dovrebbero essere loro eventualmente a chiedere aiuto, insomma, per capirci. È fondamentale ed è la stessa strategia che stiamo utilizzando in Iraq. Sì, ma quando noi lavoriamo in accordo col governo iracheno e poi con insieme anche a quelle che sono le autorità curde giusto ad Erbil. Però noi stiamo lavorando in accordo con loro, stiamo addestrando soldati, stiamo addestrando forze di polizia e in questo modo in Iraq si stanno ottenendo successi militari importanti contro l'ISIS. Però ministro Pinotti, Kerry, di quelli che avvengono ma lei parla dell'Iraq. La situazione è più confusa. Lei parla dell'Iraq, io le parlo della Libia. Kerry ha detto anche che la guerra sarà lunga, più di quelle guerre tra uno Stato e l'altro. La prima volta è stato un disastro, questa volta per farla andare meglio cosa bisogna fare? Quando Kerry parlava del fatto che la guerra sarà lunga non si riferiva alla Libia, si riferiva al contrasto al terrorismo islamico. Certo, e questo non c'è dubbio che noi dobbiamo immaginare, purtroppo, però lo capiamo dalla diffusione, lo capiamo perché se guardiamo l'Afghanistan e il Pakistan ritroviamo situazioni di terrorismo alle frontiere e i Taliban continuano a colpire in Afghanistan, lo vediamo perché se guardiamo all'Africa, da Boko Haram ad altre formazioni, ad Al-Shabaab in Somalia, noi vediamo formazioni che si ispirano al terrorismo islamista, quindi purtroppo naturalmente questa sfida sarà una sfida lunga perché è ampia anche la diffusione. Ma andare in Libia, signor Ministro, andare in Libia per l'Italia potrebbe significare un aumento del rischio di attentati fuori dentro i confini, come dicono i francesi? I rischi di attentati i paesi europei, ma possono aumentare con l'ingaggio in Libia? Io non credo, e non credo neppure che gli attentati in Francia siano connessi all'impegno francese. Queste sono non sono le letture. Vabbè, non è provato, diciamo che non è provato, certo. Su cui ci sono dei riscontri. Sì. Peraltro in Libia il ruolo dell'Italia era già un ruolo presente prima che la situazione degenerasse. Quando l'allora ministro della difesa, poi incaricato primo ministro Altini, era venuto a visitarmi a un incontro con me in Italia, prima appunto che ci fosse una degenerazione della situazione, quindi sto parlando di 2 anni fa, nel marzo di 2 anni fa, noi stavamo già addestrando i soldati libici, lo stavamo facendo a Cassino, non essendoci in Libia una situazione di sicurezza. D'accordo, è questo il passato. E quindi è un lavoro che possiamo continuare a fare. Ma la lettera... Non si parla di guerra. No, vabbè, insomma... Di preparazione, di preparazione. ISIS, sì, ma non si parla di guerra. Lei è bravissima con le parole, senta. La lettera che le ha inviato il ministro della difesa americano Carter è un'accelerazione nella linea della preparazione delle persone che devono poi difenderci dal terrorismo? No, della lettera diciamo che è stata resa nota che in realtà è giunta a dicembre, è precedente ad altri 2 incontri che ho avuto con Carter, sì. E non c'è stata nessuna pressione rispetto a quelle che sono le decisioni che autonomamente l'Italia deve prendere. Quindi in niente realtà quella nuovo. Lettera erano previste, si diceva chiediamo a tutti i paesi un maggiore impegno, gli Stati Uniti sanno bene, come ha ribadito anche ieri Kerry, quanto l'Italia sia già impegnata. Certo, questo l'ha detto con chiarezza. Ma se noi... In questo senso noi siamo stati, nonostante questo, avessimo già l'impegno più alto, abbiamo ragionato e abbiamo per esempio deciso che un impegno come quello del personal recovery, quindi della capacità di soccorrere i feriti nella zona di guerra, era una capacità che noi avevamo e potevamo D'accordo, mettere a questo torniamo questo sempre aiuta lì. Anche una risposta diciamo alla Francia, aveva richiesto un maggiore aiuto e anche diciamo un aiuto ovviamente alla coalizione, anche gli Stati Uniti che potranno usare questi assetti che loro naturalmente hanno. Senta, comunque, oltre al nuovo governo libico che eventualmente sarà quello che chiederà l'intervento della coalizione guidata dall'Italia, insomma paese guida, tutti ne parlano, e si aspetta anche un mandato dell'ONU? Beh, se ci sarà un governo libico, l'ONU ha già fatto una... Quindi l'ONU basta, quello che ha detto è sufficiente? La risoluzione dell'ONU dice che i paesi dovranno intervenire ad aiutare la Libia sulla base delle richieste dell'autorità libica. Quindi da questo punto di vista il parere positivo dell'ONU è già contenuto in quella risoluzione. Senta, ma intanto le nostre piattaforme, i pozzi dell'ENI, sono ben protetti in Libia oppure rischiano? Noi da circa un anno, dal marzo dell'anno scorso, abbiamo deciso con il Parlamento una missione importante nel Mar Mediterraneo che si chiama Mare Sicuro. Sì. Molti a volte la confondono con Mare Nostrum, che era un'altra missione. Sì, certo, diversa. Sì. Mare Sicuro è una missione di sicurezza. Sì. L'abbiamo deciso un anno fa perché con la situazione in Libia che diventava sempre più grande e con la situazione in generale nelle coste africane che ecco, ma questa iniziativa, diciamo, questa iniziativa protegge le piattaforme, i pozzi dell'ENI, esatto, anche un numero significativo di navi nel Mar Mediterraneo, un dispositivo importante che vede navi, sommergibili, ma anche ma mi risponde a questa piccola domanda? E lo abbiamo fatto perché se ci fossero attacchi, il tentativo di attacchi potrebbe esserci anche alle nostre piattaforme, noi siamo in grado di difendere, così come siamo stati in grado di aiutare a difendere queste leggi italiane nel momento in cui una... Quindi questi sono gli strumenti di difesa per proteggere anche i pozzi dell'ENI per proteggere anche i lavoratori e i pozzi dell'ENI che ci sono in Libia insieme a tutti quelli che possono naturalmente non c'è una risposta specifica per quello, cioè ma una risposta generale. Senta, ma secondo lei perché i francesi hanno lanciato l'allarme sull'infiltrazione dell'ISIS proprio adesso? C'è una ragione? No, non credo se non un ragionamento che il ministro francese ha fatto sul problema che una Libia fuori controllo nella prossima primavera possa rendere molto difficile la situazione. Questo è comprensibile perché sappiamo che con il bel tempo ci sarà un rischio di una nuova ondata di migranti, insomma, quindi, no? Da questo punto di vista, detto, potrebbe anche succedere. Poi ha fatto questo esempio di Lampedusa che era assolutamente fuori luogo. Non sono mai stati evidenze di infiltrazioni che riguardassero, diciamo, imbarcati in quell'isola, né di infiltrazioni che... Ecco, ma questa nuova probabile o possibile nuova ondata di migranti di cui parla anche lei per la primavera, questo può essere la ragione per anticipare un intervento? No. La ragione per anticipare un intervento è determinata dal fatto che una Libia fuori controllo può diventare, come già in alcune parti della Libia è, la zona di espansione del Daesh, tanto più quando ci sono delle sconfitte in Iraq e in Siria, e quindi con una strategia che il califfato può avere e sicuramente ha di espansione in Libia. Ecco, le faccio un'ultima domanda, ministro, la ringrazio intanto. Lei esclude che Francia e Inghilterra si possono muovere in autonomia come è successo nel 2011, perché poi là in realtà loro sono partiti? Sì, io lo escludo, anche perché abbiamo fatto recentemente il 20 gennaio una riunione e erano presenti i paesi europei più impegnati nella coalizione, c'era il Carter per quanto riguarda gli Stati Uniti, c'era Le Drian, quindi lo esclude, insomma. C'ero io, l'inglese, l'olandese e l'Australia. Sì. La relazione sulla Libia è stata affidata a me come ministro italiano, sì. Ed un punto che è anche il punto che ha ribadito Fabius, ma anche Le Drian nella sua intervista, è che si agirà in modo coordinato, quindi lo esclude il ruolo guida per mille ragioni. Grazie signor ministro e complimenti per la diplomazia. Arrivederci. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mario, dunque, guerra in Libia, siamo lì, diplomatica, molto diplomatica, secondo te o no? Beh sì, la prudenza ovviamente. No, ma giustificatissima naturalmente. Fa parte del bagaglio. Beh, no? E poi anche della speranza che non si debba fare. Sì, immagino. Anche se c'è un'accelerazione evidente. Vabbè, questo è sicuro. La Pinotti sa benissimo come stanno le cose in Libia, lo sa anche più di noi, visto che i servizi segreti italiani poi queste cose le stanno controllando. Temo solo un po' la liturgia italiana, dico la verità. Cioè temo che tutto il dibattito... Però è una liturgia che è anche una garanzia, Mario, dai. L'altra volta non ci ha garantito molto. Abbiamo fatto un grande dibattito, abbiamo detto che non volevamo partecipare alla guerra, abbiamo lasciato che Francia e inglesi e Francia e Inghilterra con gli Stati Uniti facessero l'intervento in Libia. Il risultato è stato che Gheddafi è caduto, un altro sostituto non c'era, quindi non c'era il piano B, è andata male. Ma più che fare, scusami, Mario, più che fare. Lì si trattava di impedire la guerra perché posso dire, fatta gli altri, ci sono due mondo noi. Però siamo realisti. Allora, Gheddafi poteva cadere, cioè stava nelle cose. I cattivi perdono sempre, non smetto mai di dirlo. No? Allora, se il cattivo cade, tu cosa fai? Ok. Partecipi al processo, al regime change e poi trovi il sostituto. Lì non c'era il piano tu B. Tu che previsione questo fai, Pietrangelo? Ma io metterei sul piatto i dati di verità. Sì. i fatti concreti. Lì il punto di non ritorno è il generale Khalifa Haftar. Sì, certo, naturale. È tutta lì la questione. Lui è stato indicato dai territori dell'est. Mica io. È stato indicato dai territori dell'est, sì. Osteggiato da Tripoli. E l'Italia, in questo gioco, manca del principio geopolitico fondamentale, che è quello di avere un figlio di puttana, l'espressione geopolitica, sì, non è una parolaccia, l'espressione tecnica, l'espressione tecnica che faccia il lavoro sporco per mettere tutto a posto. E ahi noi, l'Italia non è in grado di reggere questo gioco. Ecco, Alberto Negri, corrispondente del Sole 24 Ore, ciao. Buongiorno a voi. Ciao, senti, questo governo provvisorio libico è talmente provvisorio che stenta a vedersi. Cosa sta accadendo realmente sul piano politico? Perché la Pinotti, hai sentito, dice vabbè, prima il governo ci deve chiamare, però insomma questo governo ci sarà, non ci sarà. Qui si fanno molti calcoli sbagliati. Ah, ecco. Prima sentivo dire che i cattivi non perdono mai. Questa è la posizione di Mario Secchi. Non è... Bashar Assad sia ancora lì e nessuno lo tirerà giù quest'anno. Ma prima o poi cade, Alberto. Secondo, che cosa abbiamo sentito ieri da Kerry? Sì. Un principio fondamentale che deve essere quello da cui derivano tutte le nostre azioni. Il segretario di Stato americano ha ribadito che in questo anno elettorale, in piena campagna, gli USA non metteranno un soldato né in Siria né in Libia. Quindi stanno cercando di arruolare affari nostri, insomma, da metterli da una parte e dall'altra. Chiuso. Fine. E in Libia, che come la Pinotti ha paragonato alla Somalia, in realtà la situazione è un po' diversa. È vero che ci sono 2000 fazioni, ma è vero anche che queste fazioni stanno in piedi per un fatto fondamentale. La banca centrale libica, che ha 70-80 miliardi di riserve, distribuisce soldi a Tripoli, a Tobruk, alle principali città e fazioni che a loro volta li distribuiscono a tutti gli altri. E quindi? Questo è il welfare state che ha sostituito quello di Gheddafi. A questo punto che cosa bisogna trovare? Bisogna trovare una soluzione militare, perché quella del generale Haftar non è accettata a Tripoli. Certo. Cioè un comando militare ad Haftar, i tripolini non lo vogliono, detestano gli egiziani, non li vogliono vedere arrivare, e il generale Haftar è un uomo del generale Assisi. Quindi questo è il problema fondamentale, certo, che non si risolve. Ma ne vedi una soluzione tu di questo problema? No, perché questo è il problema. Ma poi gli americani vogliono che la guerra la facciamo noi, sostanzialmente, noi, i francesi e gli inglesi, no? Esattamente. L'Italia dovrebbe concentrarsi sui suoi interessi, dopo che questi interessi sono stati praticamente cancellati da quella guerra del 2011. Appunto. E i suoi interessi sono concentrati in Tripolitania, quindi sicurizzazione del terminale di Mellitah dell'Eni, sicurizzazione dei pozzi di petrolio e addestramento di eventuali, come diceva Buttafuoco prima, gli eventuali personaggi con milizie che possono fare la guerra per noi sul terreno. Certo. Perché se noi andiamo a mettere il piede lì dentro, ci esponiamo evidentemente ad alti rischi. Ecco, ma tu nella posizione della Francia, che denuncia improvvisamente il rischio di infiltrazione, l'ho fatta anche al ministro la domanda, di ISIS durante gli sbarchi sulle coste italiane, cosa vedi? C'è un retropensiero o no? C'è una Francia che si sta allargando, che prova a allargarsi? Che cosa? Allora, innanzitutto quello che ha detto il ministro della difesa Le Drian l'ha detto Emma Bonino 2 anni fa, ricordiamocelo, che allora ministro degli esteri. Perché dice queste cose Le Drian? Le Drian dice queste cose perché, diciamocela tutta, l'intelligence francese ha fatto dei buchi nell'acqua spaventosi. Beh, gli attentati l'abbiamo visto, sono lì, sì, che ce lo dicono davanti agli occhi, davanti a tutti. Vogliono in qualche modo, come dire, certificare che loro hanno un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti, hanno costituito questo gruppo Lafayette con gli americani, sono molto impegnati in Siria, dove un po' in parte hanno sostituito gli inglesi come alleato principe di Washington, e sulla Libia naturalmente vogliono anche loro dire la loro, ma questa volta gli americani gli hanno messo, come dire, un altro. Gli italiani in mezzo anche li hanno messo, no? Eh certo, gli italiani in mezzo, perché parliamoci chiaro, noi dipendiamo dagli americani. Questo è sicuro. E gli americani non vogliono che i loro dipendenti vengano bacchettati da altri. Ah. Senti, ma è il nostro ruolo, quindi può essere quello che dicevi prima, quello di difesa dei nostri interessi, questo è il punto. Beh, certo, perché di questo si tratta e in fondo lo stiamo già facendo, sì, con l'intelligence in maniera diretta o indiretta, tra l'altro c'è stato un incontro. Ma diretta nostri... anche, in modo diretto e nascosto anche, per quello che ti risulta? Guarda, io non vengo qui a venderti tappeti. Appunto, lo so. Lo sai. Quindi non so se ci sono truppe speciali italiane a Melita o ci sono dei mercenari. Vedo però una cosa, che ieri abbiamo deciso di mandare 450 soldati a Mosul, esatto, a far la guardiania dei lavori della diga per una società italiana. Esatto. Attenzione, perché se si comincia così, poi chiunque poi voglia un appalto chiederà i soldati italiani per proteggerlo. È naturale, si finisce con i marò poi. In qualche modo. Senti, ma tu... la vedi un rapporto tra la, oggi tra la Siria e la Libia come situazione? Vedo questa cosa, che probabilmente se ci sarà un intervento, ci sarà un intervento aereo con i soliti raid, sì, che come sappiamo hanno degli effetti limitati. Limitatissimi. Che comunque continueranno anche in Siria. Vedo soprattutto che anche in Siria c'è un'aviazione occidentale, ma non c'è una fanteria occidentale. Esatto. Perché la guerra ci sono i Peshmerga e i siriani. Ci sono i curdi siriani, i curdi iracheni, poi ci sono soprattutto le truppe di Assad, esatto, gli Hezbollah libanesi, i Pasdaran iraniani. Perché esatto, ieri il signor Kerry, che io posso anche ammirare, è un uomo probo, uno stato un eroe di guerra in Vietnam, però cerca di darci una narrativa che non corrisponde alla realtà. Il califfato è stato ricacciato indietro da questi, e se non c'erano i Pasdaran iraniani a Baghdad, questi entravano lì dentro. Senti, un'ultima cosa, ma ci potrebbe essere secondo te ancora una via d'uscita in alternativa alla guerra, oppure sono tutte mosse, come dire, mosse contromosse per arrivarci per esaurimento di iniziative? Per la guerra siriana mi sembra più evidente che ci sia la guerra la soluzione e non la diplomazia. Lo si vede dalla mobilitazione militare che sta mettendo in campo la Russia, la sta aumentando, non la sta diminuendo. Cioè, ma russi e americani in Siria non si mettono d'accordo? Potrebbero farlo naturalmente, cooperano in alcuni campi ma sono in competizione con altri. Faccio notare che mentre il Pentagono stanziava fondi per la Siria e l'Iraq, ieri ha stanziato anche 3 miliardi e mezzo di dollari per contrastare, virgolette, l'aggressione russa in Europa dell'Est. Accidenti. Quindi qui ci sono molti. È una scacchiera molto complessa. Ecco, insomma, via di uscita in alternativa alla guerra ci potrebbero essere, ma bisogna volerlo. Questo è il punto, no? Certo, bisogna volerlo, e soprattutto forse, ecco, possono esserci dei cessate il fuoco su cui si sta cercando di puntare, e fare in modo, questa è l'unica soluzione, come fu fatto durante la guerra Iran negli anni '80, che nessuno vinca. E che nessuno possa reclamare una vittoria, un congelamento del conflitto. Grazie Alberto, grazie, buon lavoro, grazie. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS Mario. Insomma, interessante il quadro di Alberto. Sì, eh? No, Alberto come sempre, poi non appeli sulla lingua, no? Dice le cose come sono. Sì, questo per è fortuna. Perfetto. Fa il suo mestiere bene. No, secondo me, insomma, a vedere così le cose che stanno succedendo, non si va oltre la primavera con un intervento armato. Tu pensi questo? Beh, è abbastanza imminente, dalle cose che dicono, dalle cose che stanno facendo. Ci sono tutti ormai dentro, voglio dire. La Francia non ha bisogno certo di dichiarare la guerra. Certo. Gli inglesi si stanno preparando. In Libia noi abbiamo un interesse nazionale talmente chiaro che non lo vediamo. Insomma, ecco, tu, 20% della produzione è in Libia, vorrei dire. Tu, Pietrangelo, pensi che sul piano politico sia credibile mantenere l'unità, cioè, riuscire a mantenere l'unità della Libia? Ma allo stato attuale nessuna nazione, figurarsi, Mario la conosce bene, neppure la Gran Bretagna risulta di fatto unita. Certo. Lì la situazione è già segnata da fatti remoti, perché gli istinti tribali hanno caratterizzato da sempre quel territorio, sono questi a prevalere perfino sull'unità della Umma islamica, tant'è vero che è impossibile immaginarne un progetto politico. Però vorrei affidare a voi una suggestione, un'immagine che poi è concreta e vera, che arriva dal passato. È comunque quello il territorio che da Kufra, che era sede del santuario di Siwa, Alessandro Magno, col nome di Sikander o Iskander, che dir si voglia, tracciò il percorso che dalla Libia, appunto da Kufra, arriva a Bosra in Siria e quindi a Elia Capitolina, ovvero Gerusalemme, dove segna il passaggio che tutti i musulmani percepiscono e catturano nel proprio intimo, che è quello del bicorne, cioè il condottiero Alessandro Magno, che viene anche evocato nel Corano, che dà un'indicazione di percorso di unità che è sempre soltanto spirituale, giammai politico o militare. Beh, interessante questa lettura, più laterale ma profonda, diciamo. Il problema militare però naturalmente esiste. E se non faceva Alessandro Magno. Appunto. Ecco, Gianandrea Gaiani, che è direttore di analisi e difesa, proviamo a fare, lei è un esperto militare, proviamo a fare una specie di scenario di guerra in Libia. È pronto? Siamo pronti. Buongiorno. Ecco. Proviamo, buongiorno a voi. A tutti. Allora, facciamo così. Lei ha il comando dell'operazione. Dobbiamo invadere la Libia per devono invadere la Libia per proteggere il governo di Tripoli. Di quanti uomini ha bisogno? Ma se voglio invadere la Libia per sconfiggere l'ISIS, ho bisogno di poche migliaia di uomini, ma di poterli, di avere carta bianca su quello che c'è da fare nei territori occupati, cioè di poter fare la guerra, non la finta guerra, la guerra umanitaria, la guerra in cui prima di bombardare un obiettivo devi sapere che non ci sia nessun civile vicino, perché quel tipo di guerre lì fanno vincere solo il nemico. Certo. Qual è la stagione migliore per intervenire? Sempre continuando il nostro scenario. Se devo mettere le mie truppe occidentali sul terreno, non l'estate, che laggiù è torbida. Ah, ecco, e fa precedere lo sbarco da bombardamenti? Faccio precedere lo sbarco da bombardamenti aerei, ma soprattutto dal lancio di paracadutisti o l'infiltrazione di forze con elicotteri per chiudere, cinturare l'area e impedire ai guerriglieri di scappare verso il deserto. Ecco, poi andiamo su Sirte, li circondiamo e li eliminiamo tutti. E quali era sono più facile, scusa, era no, più no. facile farlo l'anno scorso, quando all'ISIS erano quattro gatti in Libia. E adesso quanti sono? Si sa, si ha un'idea? Si parla di 8.000 uomini, però potrebbero essere di più, perché loro stanno facendo alleanze con alcune tribù, con altre milizie. Qualcuno teme che un attacco, un intervento internazionale possa mobilitare altre milizie di matrice islamista. Ci sono Tripoli, milizie salafite, molto vicine come ideologia ad Al-Qaeda, ci sono milizie dei Fratelli Musulmani, che insomma, se ci fosse un intervento occidentale, qualcuno pensa che poi reagiscono, islamiste potrebbero coalizzarsi. Ecco, ma gli obiettivi quali sono principali, con cosa li si colpisce? Ma gli obiettivi oggi sono, queste milizie sono i loro mezzi, che sono mezzi leggeri, civili, sono delle jeep con qualche arma sopra, e hanno armi pesanti che hanno raccolto in qualche deposito nel deserto, li si colpisce con le truppe sul terreno. Ecco, le truppe come arrivano, via aerea o sbarcano via nave? Entrambe le cose. E come dovrebbero essere equipaggiate queste truppe? Ma fanteria leggera, altamente mobile, in grado di disporre di blindati per muoversi sul terreno rapidamente, con un forte supporto non solo di aeroplani ma anche di elicotteri da combattimento, che sono quelli che a distanza ravvicinata riescono a conseguire i migliori risultati, ecco, sugli obiettivi nemici. Ecco, il nemico naturalmente reagisce e comincia una guerra asimmetrica in un ambiente urbano. Come la fronteggiamo? È proprio per questo questo, che questa campagna che andava fatta l'anno scorso quando gli egiziani chiedevano di farlo e attaccarono Derna da soli, come forse qualcuno ricorderà, aveva fatta con forze occidentali che eliminino l'ISIS, poi le forze dell'ISIS, poi la, diciamo, l'azione di controllo del territorio e il contrasto anche a guerriglia e terrorismo la possono fare le milizie libiche che eventualmente dovessero decidere di affiancarsi alle forze occidentali, quelle legate al governo. E se per le ragioni che ha detto delle alleanze fatte si incontra una forte resistenza, come si sconfigge? Si chiedono più uomini, si usano i tank, che si fa? No, in ambiente urbano puoi usare i tank, puoi usare l'artiglieria, tenendo conto però che è un tipo di guerra che noi occidentali non siamo più in grado di combattere. Perché? Perché provoca tantissime vittime civili. Teniamo presente che e quindi che quella non la faremmo? Non si farebbe. Forse non avremmo la capacità politica per farla. Il capo di stato maggiore della difesa britannico Houghton, un tempo fa, parlando a Chatham House, ha detto: purtroppo noi siamo in grado di mettere in campo una potenza di fuoco devastante, ma l'Occidente, lui parlava della Gran Bretagna, non ha più la capacità politica e sociale di impiegarla questa forza. E quindi l'arma che manca per poter vincere è la reale disponibilità a fare la guerra. È la capacità sociale e politica di fare la guerra con tutto quello che ne consegue, cioè uccidere molti nemici, avere diverse perdite e purtroppo uccidere anche diversi nemici. Ecco, allora per chiudere, visto questo scenario apocalittico, c'è un'arma per evitarla questa guerra? Ma è l'unica arma a cui stanno pensando tutti, perché Kerry, gli americani pensano di fare in Libia la stessa guerra che stanno facendo in Iraq e Siria, aeroplani, forze speciali, cioè una guerra inconcludente, cioè, che durerà anni. L'unica speranza è di farla combattere ad altri. Il problema è che non si vede nessuno. Gli unici che hanno truppe sul terreno per sfruttare il supporto aereo sono i russi e hanno le truppe di Bashar Assad. E quindi iraniani. Siamo di nuovo lì, sono loro che noi conducono il balletto. Non abbiamo fanterie sul terreno affidabili che non siano le nostre, che non riusciamo a impiegare, come dicevamo prima. Grazie Gaiani, grazie. Beh, uno scenario difficilissimo, Mario. Mi sembra che siamo messi. Il generale Gaiani è stato preciso. No, vabbè, il classico scenario da guerriglia urbana, c'hai davanti il mare, in questo caso, dietro un deserto da dove sostanzialmente poi arriva di tutto. Confini a est, a ovest, quindi, diciamo, a sud non controllati. Molto complicata. La Libia è grande come l'Alaska. Capito, Pietrangelo, ecco, cosa... Gheddafi era un dittatore, certamente, però aveva capito molto del Medio Oriente, mi pare, no? Sì, come no, anche con te spiego bene quale sarebbe stato il ruolo della Turchia nello scenario futuro, sì, ma di con Gheddafi chiarezza. Bisogna ricordare anche un episodio ben preciso, quando ad una riunione della Lega Araba, quando si stavano per completare tutti i riti di benvenuto, di felicità, di allegria, lui prese la parola e disse: ma guardatevi in faccia, guardiamoci in faccia tutti, siamo riuniti qui i rappresentanti della Lega Araba e dei palestinesi non ce ne frega niente. Mamma mia. Senti Mario, per chiudere questa carrellata possiamo tirare un po' su il morale con una canzone? Ma una canzone di speranza per il futuro della Libia, eh? Hai citato la parola giusta, non è futuro ma è futura, di Lucio Dalla. Chissà, chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così seri. Rimani. Mix 24. Romantico oggi? E più che altro un'osservazione fatta in metropolitana. Ho guardato bene, ho studiato bene cosa combinavano due. Ed era il gioco malvagio col gioco incastro. Erano assolutamente perfetti, perché non si fa altro che desiderare un'anima con cui completare il proprio desiderio. Ma l'esito è sempre quello di perdere quell'anima, e così perfettamente incastrati si disincastrano, e lasciarsi sognare è cosa malvagia assai, quando poi si va via e si va sempre via. Insomma, ha chiamato Ginevra stamattina e ha detto: non ne posso più di Lancillotto. Oh, sì. L'incastro, dice, è perfetto, ma il gioco è malvagio. Vabbè, vogliamo alto. No, no. Posso dire, a me Lancillotto sembra un po' sfigato. Sì, cioè, un pochino. Cioè, sta Ginevra fa quel che vuole. Quello che le pare. Vabbè, vabbè. L'amata fa quel che vuole, lo sappiamo. Ma Lancillotto proprio, ma non reagisce, non so come. Sai, poco homo. No, non è vero, ha capito che è l'unico modo per averla. E cioè, poi c'è Partenerone. C'è Parsifal. Lì è fregati tutti. Vabbè. Allora, okay. Vai Mario, vai con la tua bolla. Beyond dreams. Beyond life. You will find your song. Grandissimo pezzo questo, Beyond dei Daft Punk, che non sono americani, non sono inglesi, ma in realtà sono parigini, sono due DJ che come Moroder hanno reinventato un po' la musica contemporanea, pop rock misto a un sacco di cose, e siccome sono francesi io mi aggancio adesso, tac, e rieccoci a Parigi. Perché? Perché il think tank France Stratégie, che è vicino al primo ministro francese, anzi ne è proprio una diretta emanazione, ha prodotto uno studio che fa i conti sui contraccolpi derivanti da una diciamo così abolizione, abbattimento di Schengen, quindi della libera circolazione di beni, servizi e persone in Europa. Sai a quanto ammonta? A quanto? 110 miliardi. Quindi quando si dice vabbè, basta Schengen e così via, forse bisogna anche farsi un po' i conti in tasca. Per la sola Francia in 10 anni il conto sarebbe di 10 miliardi, un miliardo all'anno. Probabilmente se lo facciamo sull'Italia i conti sono simili, perché sono due paesi che in qualche maniera hanno caratteristiche comuni, soprattutto per quanto riguarda flussi turistici eccetera. Quindi bisogna forse meditare un pochino. Pensate che in Francia il calcolo su un abbattimento degli accordi di Schengen prevede una simulazione, un calo del turismo del 38%. Ed è proprio vero, finisce l'Europa se finisce Schengen, e forse, ripeto, chi ha ricette migliori proponga i numeri, propongo, come sempre. Salamino! Eccoci nella felicità del regime renziano. Vabbè, regimetto. Regimuccio. Reginetto. Happy regime. Si dice così nella Happy regime. Allora, io ho fatto tutta una considerazione. Abbiamo tutti i diritti civili possibili, però aumenta la disoccupazione. Perché tutti i desideri sono diventati diritti, quindi maritare mascoli con mascoli, femmine con femmine, femmine diventate mascoli con mascoli diventate femmine, insomma possiamo nel nome dell'amore legare, legarci a ogni essere senziente, ma resta sempre la canzone. Chi non lavora non fa l'amore. È vero. Aumenta la disoccupazione, così dice l'Istat, e cioè non è che lo dico io. Dicembre. Allora, dicembre. Gli incentivi alle assunzioni non funzionano, malgrado tutto vada bene, come sottolinea anche Mario, tutto vada bene, però calano i lavoratori e si allungano le liste di chi cerca il pane. Vero. Il dicembre. Evocato da Mario, quello del 2015, è stato l'ultimo mese possibile per usufruire dell'esonero contributivo, quello per 3 anni per le aziende, ma queste non sono state allettate, non hanno assunto gli italiani, e quella cosa lì, come si dice? Jobs Act. Jobs Act. Come? Jobs Act è una nuova norma del lavoro, butta fuoco, è bellissimo, dai, tu pensa, una volta uno doveva dire la riforma del lavoro sul tavolo, de pencil on the table, invece devi imparare sta parola, com'è? Jobs Act. Oh, allora è diventata in realtà una garanzia del posto fisso, ma solo per chi il posto fisso ce l'ha, insomma, parlare niente in inglese garantito. Parlare in inglese non ha non creato crea occupazione, è solo un surrogato del pubblico impiego, è solo un surrogato del grande Remo Gaspari, e perciò canzone. La prima repubblica non si scorda mai. Bei tempi. C'era il pubblico impiego, l'unica vera Fiat a disposizione degli italiani e soprattutto delle plebi meridionali. Olè. Allora, la situazione, andiamo in concreto perché voglio fare le cose un po' piritolla. Allora, oh, l'occupazione, com'è che si dice job? Jobs Act. Questa cosa qui non ha generato produttività, diciamocelo, se no ci sarebbe stato l'aumento del prodotto interno lordo. Ha fatto contratti sostitutivi, ma sì, e intanto l'occupazione femminile resta ferma ed è il tasso tra i più bassi in Europa. La disoccupazione giovanile c'ha i livelli più alti in Europa. Poi, ovviamente, nel tasso di disoccupazione sono esclusi da questo conteggio i cosiddetti giovani non inattivi, che sono quelli impegnati a studiare. Io poi ho fatto una veloce indagine per capire che cosa stanno studiando. Prevalentemente sono studenti fuori corso di scienze della comunicazione, scienza del giornalismo, scienza del Pilates, scienza del flusso, del riflusso, scienza dell'esofageo. Insomma, la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro! Degli altri canzone. Dovete andare a lavorare, io sta prendo, là. Capito? Pronto. Dovete andare a lavorare, dovevo tutti lavorare, sta di che dovevamo lavorare, bisogna andare a lavorare, abbiamo capito, dovevo capito. Tutti lavorare, sì, sì. Il grande Paolo Panelli, formidabile, a lavorare. Mario, era fantastico, ancora una bolla, sì, senti qua. Oh, questi erano tamarri forte, però ti li ricordi tu i Rockets, Giovanni? Sì, come no. Erano tutti argentei, però la musica era buona, senti. Sì. Perché i Rockets? Perché ci occupiamo di cose spaziali. E la cosa divertente è che il Lussemburgo andrà sugli asteroidi, caro Giovanni. Tutti pensiamo al Principato come un posto dove ci sono i cavò, gli studi dei commercialisti che ti aggiustano, diciamo, quelli di Juncker, le cosette, insomma, sul fisco, esatto. Paesaggi con castelli fatati, eccetera. E in realtà il Lussemburgo è un grosso player già nel mercato satellitare europeo, e in più sta lanciando una nuova industria che è nuova nell'immaginario, non è in realtà, che è quella dell'estrazione mineraria dagli asteroidi. Si può fare? Sì, si può fare. Io tra l'altro nel 2010 già vidi questi progetti in Silicon Valley. È molto interessante perché puoi lanciare una navetta, puoi atterrare su un asteroide, puoi perforare il terreno, puoi estrarre il minerale e naturalmente riportarlo sulla Terra. Chi lo fa? La Grande Germania? Chi lo fa? Lussemburgo, che è piccolo, ma non importa quanto crescerà. Sei grande, esatto, ma quanto sei intelligente e capace. Tutto questo si chiama merito, no? Merito e capacità. Conta in quasi tutti i posti tranne in un posto. Dov'è che non conta? In Italia. Ma come fai a dire questo? Te lo dico io. Ma guarda, questo concentrato invece di, sì, di professionalità. Ma noi siamo insieme. Esuli qui. esuli in patria. Noi siamo esuli qui dentro. 800 24 00 24, numero verde, 349-238-6666, sms, pubblicità. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Mix 24 Canzoniere. Fuoco San Gregorio Magno. No, no, è il fuoco. Fuoco in casa Trao. Don Diego, Don Ferdinando. Si udiva chiamare in fondo alla piazzetta e uno che bussava al portone con un sasso. Dalla salita verso la piazza grande e dagli altri vicoletti arrivava sempre gente. Un calpestio continuo di scarponi grossi sull'acciottolato. Di tanto in tanto un nome gridato da lontano. E insieme quel bussare insistente al portone in fondo alla piazzetta di Sant'Agata e quella voce che chiamava: «Don Diego, Don Ferdinando, che siete tutti morti?» 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS per chi vuole chiamare. Blocco totale del traffico a Roma, previste nuove misure per combattere l'inquinamento. Ma anche Milano sta affrontando l'emergenza smog. Stop ai veicoli più inquinanti dalle 8.30 alle 18. A Venezia il livello delle polveri sottili ha raggiunto un picco di 211 microgrammi. A Napoli invece il sindaco ha firmato l'ordinanza per il divieto di circolazione per vetture Euro 0 e 1 da domani fino al 6. Di certo, segnala Legambiente, gli stop alle auto sono importanti ma non bastano. Servono progetti a lungo termine che migliorino i servizi di trasporto pubblico. Polveri sottili, auto inquinanti, targhe alterne, centraline impazzite, domeniche ecologiche, un linguaggio sempre uguale nei bollettini di una guerra che combattiamo da anni per difendere la qualità dell'aria che respiriamo. Ma forse, come dicono gli ambientalisti, è tardi. Più tardi di quanto pensiamo, e allora per evitare lo shock del futuro va ripensato il modello di sviluppo. Fermi tutti, la mobilità sostenibile, le testimonianze, i documenti originali, le ipotesi della scienza, qui a Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale radio. E Mario, c'è ancora una bolla? Sì, no, stavo leggendo le ultime notizie. C'è Juncker che sta parlando, ha ringraziato Matteo Renzi e l'Italia per la solidarietà mostrata nell'aiuto ai migranti. Ha appena detto che l'accordo tra Unione Europea e Regno Unito sul famoso tema del Brexit si farà e sarà vantaggioso, parla di riforma equa per tutta l'Europa. E, insomma, è interessante perché è un buon incassatore. Juncker è micidiale. Ma secondo te ha paura di essere in qualche modo disarcionato? Finché Merkel è forte, no. Finché Merkel è forte, dicevi, no. Pietrangelo? E non posso non leggere un messaggio che ci sta arrivando da un insegnante. Credo che userò il podcast della trasmissione come orientamento, altro che inglese 2.0 e pseudo-impresa ed Erasmi vari. Grazie. Carina questa insegnante. Grazie. Bene. E intanto adesso, come al solito, col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste di tutto il mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA, 10 novembre 2015. Effetto di incentivi economici a medici e o pazienti sui livelli di colesterolo. Nel tempo ci sono stati diversi studi dove si andava a vedere se, incentivando economicamente i medici, si avevano dei risultati clinici significativi. Per esempio, sul mantenimento della glicemia adeguata o di una pressione arteriosa normale. I medici che avevano i pazienti che mantenevano la glicemia a posto e la pressione normale avevano un incentivo economico. Si è visto che questo dava degli effetti significativi sui risultati clinici, ma a breve termine. A lungo termine, di fatto, questi effetti non c'erano. Pochissimi studi, invece, se diamo degli incentivi economici ai pazienti, pochissimi studi sono stati fatti per vedere se questi incentivi economici avevano dei risultati clinici. Ti do a te, paziente, tot se mantieni la glicemia a posto. Allora, questo studio invece ha fatto una ricerca sui diversi incentivi. Cosa succede in questo caso sul colesterolo cattivo, l'LDL, il low density lipoprotein colesterolo? Cosa succede se pago i medici, pago i pazienti o pago medici e pazienti? Pago è una parola forse grossa, nel senso che venivano dati dei gratta e vinci ai pazienti che venivano reclutati, mentre invece ai medici veniva dato un compenso economico, peraltro modesto. I risultati sono stati quelli che mi sarei aspettato. Il colesterolo veniva mantenuto, l'LDL colesterolo, il colesterolo cattivo veniva mantenuto basso se l'incentivo veniva dato sia ai medici che ai pazienti, guarda caso. E per chiudere, Gloria Guerrera ha scelto per noi. Oggi ascoltiamo una canzone per chi alle 10 di mattina è ancora in abito da sera, come ieri sera, come una di quelle, Gino Paoli. Io ti guardo mentre esci dal mio albergo alle 10 di mattina, in abito da sera, come ieri sera quando sei venuta con me. Io ti guardo mentre cammini tra la gente delle 10 di mattina, che ti guarda come fossi una di quelle, come fossi l'ultima delle donne. Io ti guardo mentre piangi tra la gente così per bere, poi ti vedo che riguardi bene in faccia, che sorridi per